Nelle puntate precedenti. Ma non è successo nelle puntate precedenti, perché, cioè, generalmente, a sto punto. Aspetta che accendo anche la cam. Aspetta che non si è accesa. Cioè, non è collegata. Dov'è la mia telecamera? Oddio! Scusate! Che in realtà è un Cosa secondo che lavoro in cui streami parti sia specifiche del tuo pure. corpo. Le mani, chiaramente. Ma mente di sì. Dicevamo. Cazzi. Nelle puntate precedenti cosa non è successo? Non ci sono stati matrimoni, diciamo così, perché funerali ce ne sono stati quasi. Allora, O ce ne saranno. Faccio a ruota libera. Non rido per te, vai, vai. Rido perché non mi ricordo un cazzo. Lieto e Ora vanno appunto nella biblioteca dove lì incontrano l'uomo che ride. Lieto fa il solito pazzo, quindi dice sì, grazie, dammi il libro, arrivederci. Ora dà di matto, in maniera molto comprensiva, dà di matto al punto che decide di buttarsi dalla finestra. Che Lieto corre tutto preoccupato a vedere come sta. Ovviamente è morta, essendo fatto un volo di 4 piani. Ma per fortuna siamo alla Zenith Mistral. No, E quindi Auster. Hauser, non ricorderò mai i nomi. Uccidetemi, frustatemi, non ce la faccio. No, che poi ti piace. Troviamo appunto la Zenith Hauser. Quindi Ma ha lei, detto: no. sai cosa? Vado a cercare la mia cara amichetta necromante e andiamo e la resuscitiamo easy. E intanto si era giustamente fatto attorno tutto un gruppo di persone. Mentre Tone e Nibel hanno terminato i loro sogni con appunto Mif e discutono un pochino. Non mi ricordo assolutamente di cosa si parla, non mi ricordo anche di cose vagamente importanti. Vaga! Maga? Tripla. Anche mente. Ma ovviamente non mi ricordo cosa sono detti. Arrivano finalmente alla Demia, dove appunto vedono Ora ammazzata, morta per terra. Ma per fortuna incontrano torna Lieto. Suicidata, suicidata. Suicidata, suicidata. Torna appunto con la sua amica, che giustamente, prontamente, Ira dice: ma io non lo so risuscitare. Quindi niente, chiediamo a qualcuno di resuscitare, che giustamente diceva, ma di solito se qualcuno si suicida preferisce rimanere morto, però va bene. Resuscitiamo Ora che è andata pazza, è andata fuori di testa, e allora Mif è costretta a castare un oneromanzi per tranquillizzarla. Poi a quel punto si addormenta anche Lieto, ma fa stesso. Svegliamo Lieto, portiamo con noi Ora e usciamo dall'accademia appunto. Veniamo però notati dalla rettrice della locale Centrale. centrale. Grazie, stavo dicendo fabbrica, Buchelos, no? la Buchelos, la Buchelos, Esatto, mettiamo. Bucles. Tra l'altro ha un nome bellissimo che io mi dimentico sempre ogni volta che sento. Un cazzo, che bel nome per una rettrice di una centrale. Io me lo dimentico. Comunque, iniziamo. Ovviamente piove, perché piove sempre. E iniziamo a tornare per la nostra chiesetta. Non passiamo davanti alla stazione e notiamo la cartomante, appunto, quella che tutti abbiamo visto. E ciao Jack. Ciao Jack. Grazie Jack. E appunto, al che Adone, giustamente perché non si sa fare i cazzi suoi, va a chiederle di fargli una lettura, eccetera. Lei gli dice: ah, tu avrai uno scontro contro una persona che ami? Dio, micra. Abbiamo Foreshadowing. qualcosa da fare domani. Foreshadowing, esatto. No, io poi ve la spiego. Sì, e al che giustamente la tipa lo insulta un po', lo butta pure per terra, gli tira uno schiaffo, gli lancia addosso le carte, gli pisce in bocca, gli non fa qualcos'altro. Al che giustamente Saturno dice fottiti, fa per tirarle una piccola schicchera amichevole, la frigge quella povera donna, e che giustamente Adone se ne va, leva i propri coglioni. Lieto rimane indietro a fare non si sa cosa, mentre gli altri vanno avanti. Avanti incontriamo una figura misteriosa scura, tutti vanno avanti tranne Mif, che poi è lieto. Con Lieto è lieto, è un nanosecondo, sei come mio padre, non mi lasci finire le frasi. Parlano con la grandissima donna che è Maria Reziari, andata fuori di testa Mif, perché Mif prova immediatamente a svendere Adone. Però Maria, proprio perché passa, dice grazie, insomma, cacciatrice lo trovo io. Abbiamo sentito che lei è alla ricerca della dea del commercio, di cui non ricordo il nome. Diru. Esatto. È alla ricerca di Diru, che giustamente abbiamo, cioè, si è, so dire, cioè, non reincarnata, ma sappiamo che ha messo piede, insomma, nella città. Dopodiché arriviamo alla chiesa e Adone ha un breakdown in cui apre per ben 3 volte il libro del futuro magico dato dall'uomo che ride, al che Mif e Lieto dicono senti basta, grazie. Poi finalmente si risveglia Ora, però quando si risveglia Ora c'è un po' di confusione trambusto, Adone cerca di nuovo di prendere il libro, Lieto non glielo vuole far prendere, ma il libro si apre lo stesso. E vediamo il futuro di Ora, torturata dall'uomo che ride. E questo è il motivo per cui lei si preferisce morire. Bene. Non credo di essermi dimenticato nulla di importante. No. Ora si sveglia. Ora, Cioè, dici ora che deve sveglia, iniziare dice... ora? Cioè, non mi dite cosa fate, voi ci sta. Se ricordo bene, abbiamo Nibel sopra Ora, che la sta tenendo, giusto? Lieto, Adone e Mif sono sulle panchine, quindi vicino, però sulle panchine, che stavano guardando il libro, facendo robe, e il sacerdote è da un'altra parte della chiesa, e lei quando si risveglia, se vi ricordate, dice una frase che non ci ricordiamo, io non me la ricordo, voi non me la ricordate, potrei andarla a prendere nelle registrazioni, ma se non sbaglio era... Avete capito perché devo morire? Adone a questo punto si fa un passo in avanti verso Ora e gli chiede questo futuro è immediato o è prossimo? Non è importante. Devo evitare che succeda. A questo punto Adone si gira verso gli altri, dicendo, beh, io non trovo nulla di sbagliato in quello che dice Ora. Vai dietro. Io so pure che, I guess. Non è comunque convinto della scelta di Ora, diciamo così. È una sua scelta, ma è una scelta di merda per Lieto. Sì, anche Mif è d'accordo con Lieto. Cioè, è una scelta di merda, però a sto punto incrocia le braccia, tipo si appoggia a una di quelle panchine solite da chiesa, I guess. Guarda, Adone fa, beh, non sfrutti l'occasione? Cos'è che avevi detto di voler essere un dio magnanimo? Un dio gentile? Buono? Qual era l'aggettivo? Non mi ricordo. Adone sorride e dice, è una occasione che vorrei sfruttare anche per fare una gentilezza nei confronti di Ora, ma... Temo che al momento mi manchino le informazioni tecniche per poter cogliere questa occasione. Non mi interessano i vostri motivi, è fondamentale che mi uccida da sola. Ah, E da solo? I suicidi rinunciano alla loro anima, secondo la mia religione almeno. E se non avrà un'anima, quello non avrà niente da torturare per l'eternità. E se l'assorbisse Adone, quell'anima, quello avrebbe comunque qualcosa da torturare? Ora sta guardando un punto fisso nel vuoto e poi si concentra su Adone e dice: in che senso assorbire? È una domanda che, a dire il vero, mi sto ponendo anch'io. A questo punto si gira verso Miff, che appunto dice: tu sembri saperne sicuramente più di me dell'argomento. Non credo di poter fare la cosa che ho fatto nel mio sogno. Perché non provarci? Prego. A questo punto Adone si stende di fianco ancora. No, aspetta, cosa? Vuoi che faccia un romanzi? Così? Non ho più utilizzi. E allora cosa proponi di fare? Devo aspettare di addormentarci? No, non penso che il tuo potere sia attraverso i sogni, sai? Non saprei rifare la cosa che ho fatto nel sogno. Era diverso, mia madre era già dentro di me. Ora no. Non penso fosse dentro di te tua madre, però questi sono... cose che pensi tu. Allora cosa proponi, Mif? Io cosa come propongo? È? Sei tu il dio, siete voi gli dei qua io dentro. Io che mi dai istruzioni. Io che sto dando istruzioni. Io ho dato un'idea. Mif, cos'è l'anima per te? O almeno... Non ne ho la minima idea. Sicuramente un qualcosa per fare un patto. E qualcosa che vogliono i... diavoli. Demoni, diavoli, diavoli. Bene, le mie conoscenze magiche sono molto limitate in questa cosa e appunto l'unica base scientifica che abbiamo, cioè l'unico dato reale che abbiamo è che io nel mio sogno sono riuscito ad assorbire un'anima. Quella è l'unica informazione che abbiamo. E un contratto? Lei si suicida, nel suo suicidio ti dà la sua anima. Magari può funzionare. Può aiutare? I don't know. Adone ci penso un attimo. Domanda, adesso ti faccio una domanda, Pianic. Con le informazioni che ha Adone, può stipularlo lui un contratto con lei? Cioè, o meglio, ok che un patto da un certo punto di vista è io dico una cosa, tu sei d'accordo, firmiamo e via. Però, ovviamente, i patti che conosciamo noi hanno un'altra valenza, hanno un po' un'altra importanza. Sì, il contratto magico, quello della centrale. Esatto. Sono mezze robe standard, cioè common knowledge, quindi chiunque abbia un minimo di conoscenza di cose di questo genere sa di cosa sto parlando. Praticamente te dovresti comprare un inchiostro particolare, scrivere un testo, ci sono dei termini da seguire, però va bene anche nel linguaggio corrente, non deve essere in una lingua antica, e quello diventa un contratto magico, direttamente. E una volta firmato si rispettano le parti del contratto. Il punto è che giurare con l'anima e cose del genere sono robe avanzate e bisogna avere una conoscenza specifica di quei termini lì. Infatti, quindi oggettivamente non potrei fare un contratto del genere. Quelli oppure standard, quelli standard oppure... sono per cacciarti da un luogo. Cioè, firmi il contratto, se interrompi il contratto vieni teletrasportato altrove. Quello è lo standard. E appunto allora a questo punto Adone risponde dicendo: io purtroppo non conosco le specifiche per fare un contratto del genere. Kiel, una ragazza, che una donna che abbiamo conosciuto alla centrale, era lei quella che gestiva questo tipo di contratti. Lei sicuramente ne ha le capacità, ma è sparita e ricercarla non ha senso in questo momento. Sì, anche perché Maria ha detto che della vostra combriccola li aveva trovati tutti, quindi non so che fine potrebbero aver fatto. Scusami, un secondo, mi dimentico io. Hai già menzionato? Sì, hai già menzionato Maria. Sì, perfetto. Avevo già menzionato. Sì, sì, sì, ci sono, ci sono. E... già. Libertà, la mia opzione migliore è che io mi addormenti, magari vicino ad ora, e speriamo che riesco a fare qualcosa nei miei sogni. Significa che ora devi aspettare un giorno. Cosa che non farò. Esatto. La notte? No, dobbiamo aspettare un giorno. Non, cioè, è sera oggettivamente. Di aspettare. Quante non volte l'hai sera. Visto? Ah, no. Sì. Quante... è mezzogiorno. E infatti è... E Mif, tipo, guarda un attimo ora e le fa... Quante volte lo hai visto? Questa è la seconda. Mif fa tipo la faccia da... Interessante. Sai qualcosa in più? No. Chi è? Vuoi fare un roll per vedere se sta mentendo? Sì, sì, vai, io lo voglio, lo voglio. Ah, cazzo, ho fatto un 4, però devo capire cos'è che ci devo aggiungere. È mentire. Poi sulla scheda è la mentire. Cioè, mentire ho più 4, ho fatto 8. Un po' pochetto. Sta mentendo. Non sai su cosa, però... No, gli ho fatto una domanda. Sai chi è? Mi ha risposto di no. No, tu hai detto quindi... sei di più. Ah, sei di più, ok. Os, tutto bene? Perso Os? Abbiamo perso Os? Prova, ok. Ok, va. No, che non era attaccato bene il microfono. Ok. Ok. Non mi sentivate. Ok, Mif inclina il capo ancora di più e fa... C'è qualcosa che non puoi dire? C'è qualcosa che non voglio dire. Che? Le informazioni sono pericolose. Lo so. Non lo stai dicendo per proteggere noi? O, cioè, se tanto ti vuoi ammazzare, poco importa per quello che dici. Per proteggere voi. Non ci ne frega un cazzo. Già, ormai non c'è... Non credo che tu possa metterci in una situazione peggiore di quella in cui siamo. Ti assicuro che posso. Sarei curioso di vederti provarci. Non lo farò. Io faccio forza sulle braccia di Ora. Aia. Qualcuno ha intenzione di aggiornarmi su cosa sta succedendo di preciso? Tutto quello che ho visto è una persona che si è buttata da un balcone, si è ammazzata e adesso vuole morire di nuovo. Contratti, stronzate. Di cosa stiamo parlando? Forse Ora ne sa di più di me, però visto che non vuole parlare. Nella biblioteca, a quanto pare, ha visto questa entità che noi chiamiamo l'uomo che ride. È un uomo molto alto di cui non riesce a scorgere di più del naso, praticamente. Ha questo sorriso bianco cristallino molto particolare e si diverte a dare questi libri blu e indica quello che ha dietro. Ora ti interrompe possono... per dire il primo che ho visto era viola. Come, scusa? Viola? Sì. Il libro era viola? Sì. Cosa c'era nel libro? Cose brutte. Erano sempre visioni del futuro? No. Del passato? Nemmeno. Erano sicuramente qualcosa. Non erano propriamente visioni. Erano realtà? Erano istruzioni. Piani, ci posso farti una domanda? Questo è cosa puramente meta. Posso fare un roll per vedere se Adone riesce a capire come cazzo consumare l'anima di Ora? Cioè, lo so che... No, il numero che devi fare è talmente alto che non ha senso farti rollare. Perfetto. Ok. Istruzioni per fare cosa ora? Causare la fine del mondo. Le istruzioni erano simili a cose che abbiamo fatto noi, secondo te? Non voglio neanche pensarci. Ho lasciato il libro a un mio amico e me ne sono andata per non rivederlo mai più, facendogli giurare che non avrebbe mai messo mano su quella schifezza. E come si chiamava il tuo amico? Non te lo dico. Come siamo sicuri che questo amico non stia attivamente facendo qualcosa? Non lo sappiamo, ma se io sto impazzendo, ci sono buone possibilità che lui stia perseguendo la stessa strada. Possiamo fermare? Non voglio che si realizzi quello che ho visto. Distruggendo la mia anima, cancellerei ogni possibilità di entrare nel circolo. C'è l'anima per te ora? O per la tua religione? Secondo la Santa Chiesa, l'anima è ciò che ci avvicina a Dio, ciò che ci mette in contatto con Dio. Col suicidio recidi il legame ed ogni possibile legame. E se non fosse vero? Cioè, non lo puoi sapere. No, ma non credo ci sia qualcosa di peggio dell'alternativa. Ma potresti spendere il tuo tempo in vita cercando per un'alternativa e scavarmi la fossa da sola, arrivando fino al punto in cui tutto ciò che ho visto si realizza. Beh, puoi sempre ammazzarti in quell'istante. Non ne sono così certa. Come puoi vedere, e facendo con la testa sopra di sé, non è così difficile impedire a qualcuno di morire. Anche quello è vero. E non possiamo neanche proporti di ammazzarti noi nel caso. Esatto. Se c'è un inferno finirei lì e ho già visto quello che mi attende. Reality check un secondo. Mi dite uno per uno cosa pensano i vostri personaggi dell'oltretomba? Nell'ordine che volete. Se volete andare in ordine alfabetico, il primo Adone. Sì, sotto volete. Il busto, sotto il treno. Adone credo che adesso, cioè, se gliela avessi chiesto un po' prima, forse ti avrebbe dato un'opinione diversa. Ma cioè, l'opinione onesta, credo che lui adesso non pensi e non credi nell'oltretomba. Cioè, lui adesso è: io non morirò, non posso morire, devo fare altro. Quindi non ci sta pensando. Se glielo chiedevi prima, ti avrebbe dato una risposta molto scientifica, tipo: smetto di esistere. Ok. Beh, esisto e poi non esisto più. Fine. Lieto? Lieto avrebbe dato una risposta molto simile a quella di Adone prima di questa cosa. E he's on the fence now. Cioè, non ha un concetto particolare dell'aldilà, ma se tutto quello che ha visto è vero, questo apre delle possibilità, mettiamola così. Ci sta. Mif, Nibel è l'ultimo, esatto. Non è alfabetico. Mif è più in linea con l'ultima parte del pensiero di Lieto, ovvero che col fatto che ha fatto questi incontri prima, era magari aperta un pochino prima a livello temporale su queste entità, diciamo che si sta chiedendo se esiste o meno, perché da giovane era partita che semplicemente muori, vai alla terra, ti seppelliscono e chi ti vuole ricordare ti ricorda, chi non vuole non lo fa. Adesso magari c'è forse un continuo. Ok, ci sta. Nibel? Nibel ci ha pensato molto negli anni ed è arrivato alla conclusione, o perlomeno spera nel fatto che non ci sia un oltretomba, perché spera che almeno dopo la morte non ci sia qualcuno che ha controllo su di te. Ok. Scusate, era per avere la panoramica. Ok. il sacerdote, che è rimasto in silenzio fino a questo momento, che era seduto in una panchina se non sbaglio, si alza e cammina verso Ora, mentre è caduto il silenzio fra di voi che state pensando. Si inginocchia per avvicinarsi di più a lei che è tenuta a terra e le carezza la guancia e le dice: anche se hai fatto un sacco di casini nella mia chiesa, vogliamo aiutarti in ogni modo possibile. La tua vita vale la pena di essere vissuta, a prescindere da quali cose orribili ti abbiano mostrato. E se proprio non riesci a togliertele dalla mente, potremmo semplicemente cancellarti la memoria. Non sarebbe un'alternativa malvagia ora? Non avresti nemmeno il peso della conoscenza, come ha detto il vescovo. Non è interamente una cattiva idea. Mi sembra un'ottima alternativa. E guardo il buon uomo e lei lo sa fare? Conosco qualcuno che lo sa fare. Riesci a farlo venire qui o dobbiamo andare noi? Dobbiamo andare noi. Dovete andare voi. Ok, con le sue veci riusciremo a convincere questa persona? Vi scriverò due righe. Ok. Cancellare la memoria è una forma di necromanzia. Comprendo. Il sacerdote di Erioz è un mio amico. Dovrebbe essere in grado di creare un rituale per cancellare i ricordi in particolare che nuociono ad ora. Rimane un problema. Ovvero? Se le visioni che ha avuto sono di un futuro vero, è destinata a viverle. La scelta allora sarà di ora. Io voglio morire. Mi ride, cioè nel senso, spiaccicata così si mette un attimino a ridere. Il tuo giudizio non è lucido, ragazza. Mif si gira verso gli altri e fa: ditemi voi. Davvero non riesci più a castare quella magia, Mif? Ho castato nei romanzi normale e ho castato su di voi due volte. Sono a posto, tre volte. Oddio, a meno che non me la conta come unica, però lì stai tu, master, a scegliere. Ok. Devi riposarti, cioè devi dormire. Esatto. Cioè, Mif tracanna. Esatto, tracanna un'altra cosa, si mette a dormire, però chissà che riposo si prende. A questo punto prendiamo Adone, prende i sonniferi, li condivide un po' con Ora. Farmapati. La uccide. Esatto. Però non sai più se i sonniferi vadano o meno. No, ma infatti non lo sta dicendo questa cosa, Adone. Sì, infatti non la propone per questo. Vabbè. E no, niente, Mif guarda gli altri e fa: come vi sembra come idea? Penso che dovremmo rispettare la scelta di ora. Scusate, mi date un minuto che devo fare una cosa. Scusate un secondo. Arrivo anch'io, allora. Prendiamo un minuto di pausa. Sì, a questo punto vado in bocca. Vai. Scusate, rieccomi. Tanto siamo in attesa di Sì, sì, lo so. Purtroppo dovevo fare genuinamente una cosa di lavoro. Beh, che fuori dire, di lavoro. Lo so che non lo è, lascia stare. Mannaggia la Madonna, ma oggi è l'ultimo giorno che faccio questa parte di lavoro. Spero. Di non lavoro. E vabbè, dovevo programmare i post, però li avevo già fatti, quindi ho detto vabbè, se è questione di andare a casa e cliccare due bottoni fa stesso, cioè. Anche perché non è che avevo tanta scelta. E niente. E ti dica. No, non lo so, sono on defense con Lieto. Io voglio tanto fare una cosa, ma non ho idea di come farla. Non lo so, perché stavo per dire che Lieto vuole rispettare la sua scelta, ma non ne avevo un cazzo. Sta facendo quella scelta che sta facendo. Ma Lieto... per un motivo sbagliato. Non mi piace, non mi piace. Guarda, non mi sembra Lieto il tipo di persona che rispetterebbe la scelta di nessuno, a meno che non è quella con cui quella che va più comodo a Lieto, cioè. A maggior ragione, una donna. Ci sono, scusate, cosa mi sono perso? Niente, solito sessismo 101, cioè, niente. Che bello. Non mi ricordo neanche se, cioè, ho fatto delle uscite sessiste, ma, cioè, per i 1600, cioè, non... Ma nemmeno. Ma neanche, esatto. Abbiamo sentito uscite più sessiste. Cioè, c'era la Cronos che è imbattibile. Vabbè, lui che 3000 anni, ci sta. Credo che Adoni anche lui abbia fatto delle uscite sessiste. Ogni tanto. Cioè, ci sta, è un'epoca antica. Ma contestualizzato. Scusate, potete riprendere la conversazione. Io ho capito anti-ica invece che antica. Perché? Perché è una donna ica. Certo. Tutto torna. Perché non ha neanche senso questo sessismo quando in una società del genere puoi cambiare sesso per a tuo piacimento? Cioè, io non comprendo questa cosa. Non farlo. Capito? Cioè... scegli di avere ragione e scegli di avere torto. Cioè, dov'è? E poi in questa società, cioè, perché io sono sicura che Adone... Io sono sicura che Adone diventi donna per Silas. 100% se dovessero voler avere figlio, figli. Sì, ma poi... Esatto. Allora, però vedi, allora rientri nella percentuale di discriminazione. Aspetta. C'è il Sirio, oggettivo razionale, dice vabbè, fa tipo la pregnancy machine, quindi lui ha finito... Per forza deve fare quella roba lì prima, vabbè. Pregnancy machine, quindi in un mese ha finito. Quanto dura? Due mesi? Sì, uno o due mesi. Il Sirio, malato di mente, dice no, si fa tutti 9 mesi da donna. Però oggettivamente no. Ok. Andiamo avanti. Ninfa stava dicendo, cosa ne pensate? No, dai, sono d'accordo col vescovo. Anche io sono d'accordo col vescovo. O almeno volevo proporti ora. Tanto se proprio devi morire, tanto vale che magari, non lo so, facciamo una... Vedi che Adone sente un po' così, però dice ci ubriachiamo, non dico facciamo una festa, però se devi passare le ultime ore, almeno passale bene. Abbiamo ancora dell'alcol avanzato, credo. Ti sta guardando con uno sguardo molto serio e ti dice: lo avrei fatto con i miei amici. Questo è il meglio che abbiamo da offrire, mi dispiace. Per cui preferirei andarmene senza passare dal via. Monopoli esiste già. Canon. Dai, tanto siamo già in una società capitalista. Io guardo gli altri e dico: in ogni caso, cosa ponete di fare? Dovevo andare a trovare questo tipo? A questo punto sarei curiosa di sapere se si possono vedere comunque i ricordi persi attraverso questa magia. Ok, il sacerdote ti dice: nella versione base della magia, no, vengono proprio. Nella versione? Base. Ti ha tagliato. Nella versione base Ok, della versione magia base. vengono completamente cancellati, eliminati. Ti ha tagliato di nuovo! Oh mio Forbidden Dio! knowledge, non dovete saperlo. Veramente! È ora che ci sta spiegando Sì. le parole proibite. Niente, l'idea è che i ricordi cancellati in questo modo vengono completamente eliminati, cioè proprio come se non fossero mai stati nella mente di chi li aveva. No, ma nel senso nel mentre che li cancelli dovrai visionarli. No, perché Si possono visionare. se lo fai con un rituale è tutto automatico, cioè puoi scegliere l'indicatore che vuoi per cancellare i ricordi. In Ok. un caso del genere sceglieresti i ricordi legati a l'uomo che ride, avete detto. Ma infatti io non sono convinto fosse l'uomo che ride. Da quello che aveva detto Ora, tra l'altro. Tu conosci Cosa mi ha Tuor? fatto? Il papà di Lieto. Che co... No, non ho sentito io a Il sto papà punto. di Lieto. No, ok, il papà di Lieto l'ho capito. Cosa hai detto Sara a sto punto? No, mi sono rivolta ad Ora e ho detto Ah, ok, se non è l'uomo che ride, tu come lo conosci? Con che epiteto? È il tu? master che mi deve rispondere. Infatti, Ah, ragazzi. pensavo stessi parlando parlando con Lieto. con Ora, ho detto con Ora. Scusa. Il polpo nella biblioteca? L'ho già sentito io questo. Probabile. Il Sì, me ne aveva polpo. forse parlato Daya, forse. Cioè, dice Adone proprio così, lo vedete non sicuro di quello che sta dicendo. Io e Naya abbiamo visto la stessa persona e. Ok, forse si percepisce in una maniera diversa o manifesta diversamente? No, mi aveva parlato dell'uomo che ride, però polpo nella biblioteca mi suona familiare. E a questo punto Sirio non è più sicuro se lo sta immaginando Sirio, se lo sta immaginando Adone. Eccoci. Però Adone comunque faccio quello detto, perché tanto non. Ho il 4%. È solo un nome comunque. Non credo che nessuno sappia come si chiami. Mentendo? Vuoi fare un roll? Che cazzo è Roll 20 in sta. Ok. Ho fatto 4 di nuovo, ho fatto 8. Oggi è la fiera dei 4. Lei lo sa. Dai, tipo. Oh, aspettate, datemi un secondo, mi devo andare in character. Miff, vedi che proprio fa un grande sospiro e fa. Almeno il nome ora, dai. È quello che potrebbe metterci in pericolo? Qualunque cosa potrebbe mettervi in pericolo. Cos'è capace di fare questa persona? Questa cosa? Di che persona? Non ne sono certa. Credo niente. Ok, e allora perché un nome dovrebbe mettermi in pericolo? Quante volte l'hai incontrato? Una volta. Quanto è importante nella tua vita? Penso che da chi ha 7 anni ho continuato a sognarlo, quindi penso che sia importante. Credo che hai capito qual è il problema. Non riesco più a chiudere gli occhi senza vederlo. Ok. Tipo, Datemi un Miff, secondo. Stai she's zitto. staring. Vai. Ok, però non è andata avanti, mi serve di cambiare la canzone. metto questa, anche se non c'entra un cazzo, ma è l'unica che ha il vibe che mi serve. Continuo a vederlo con tutti quegli occhi, tutte quelle bocche, tutti quei denti che nascondono bocche, che nascondono occhi, che nascondono altro. Ed è ovunque, ovunque mi giri, e ci sono occhi tutto intorno a me, occhi che nascondono denti, che nascondono bocche, che nascondono occhi. Adone, ce li ha dietro i suoi sonniferi? Sì, c'è l'inventario. Posso provare a farli ingerire ad ora? Perché a me così a freddo sembra che stia andando di nuovo nel loop in cui... Ti sembra? Cioè questo... Grazie... che sai cosa? Grazie alle sue grandi capacità empatiche Adone riesce. Sì, te ne rimane uno. Lo uso se... Più stated, di così. Nibel, cioè come per dire, posso? E c'ho lo stesso libro in mano. Io le dico, quindi tu vuoi morire non per salvare gli altri, ma perché hai paura? Non è nemmeno paura, è la certezza di quello che mi succederà. Still paura, bro. È l'unico modo per evitare un futuro peggiore della morte. Quindi la tua anima, la tua esistenza in questo momento è la più pericolosa al mondo. È la chiave per la fine del mondo. È quello che mi stai cercando di dire. Non ho idea se sia questo il caso. L'unica cosa che so è che la fine che farò sarà peggiore che un'eventuale fine del mondo. Per me. Dovrai dirmi di più ora. Ho visto la verità. E questo mi basta a voler cessare ogni legame con il mondo. Ciò potrebbe essere la chiave di tutto. Non è la chiave per un cazzo. Ho solo tolto una tenda che mostra cosa c'è dietro al teatro. Io sono dell'idea che è meglio sapere con cosa si ha a che fare. Perché non sai cosa... Ti dammi siti. Io la tengo. Dov'è? Posso dire? Vabbè, è poco, gli M83, per carità. Perché non sai qual è la verità. Forse avrei dato un po' di coraggio. Beh, ho fatto un patto con la persona più potente di questo mondo per poterla sapere, quindi insomma penso che vorrei conoscerla. Che dici? Ti assicuro che lui non sa un cazzo. Wow. Di chi sta parlando, Mif? Te lo sta chiedendo in character, immagino. Sì. È proprio una... Qual era il suo ruolo? Non mi ricordo proprio la terminologia del suo lavoro. Presidente della commissione per le centrali. Esatto, inserire questo. E... Cyrus Brook. Ok. Il nome ti suona familiare, ma se non sei no. In politics, eccetera... Non lo conosco. E... È l'uomo che sovraintende tutte le centrali, quindi io penso che comunque sappia cosa ci sia dentro. E soprattutto se è stato soltanto ferito da Diru, probabilmente sa più di quanto... sappiamo noi. Di quello poco ma sicuro. Esatto. Ed è più vicino alla verità. Magari non la sa tutta come ora, però è di certo qualche briciolina in più. E io sono interessata a quelle briciole, quindi se mi puoi dare tutta la pagnotta sono felice. Poi se vuoi ci suicidiamo insieme, non ha importanza. Il sacerdote ti mette la mano sulla spalla e con voce molto buona ti dice: forse è il momento di pensare attentamente a quello che dici e che fai. Mif fa tipo, alza un sopracciglio, no? E semplicemente guarda ora di nuovo, aspettando la risposta. Non ho intenzione di condividere niente con nessuno. Ah, che egoista. Direi l'esatto contrario. No, per forza lo devi condividere con tutti. Vi sto solo chiedendo di lasciarmi fare una decisione su me stessa. E direi che Lieto a sto punto se ne va. Cioè, non sa cosa scegliere, non sa cosa è meglio. E sì, è Ponzio Pilato e me ne vuole mai. Molto il lieto character. Se volete legarla e portarla dal tipo, for me it's fine. Se lei si suicida, for me it's also fine. La gestione delle problematiche morali di Lieto è magnifica. È fermo tra l'incudine e il martello, cioè la padella e la brace, cioè non è che c'ha delle opzioni questo. Beh, ora onestamente io ti lascerei anche andare, però da parte mia vorrei insomma una briciola in cambio. Ma più che altro una curiosità, il tipo a cui hai dato il libro di Oclica, vero? Non è proprio di Oclica, ma vive nei dintorni. Capelli neri lunghi. Si veste di viola? Non si veste di viola, porta i capelli neri e lunghi. Hai notato cosa hai appena detto? Cioè, out of character, te lo sto dicendo. In che senso? Le hai chiesto se si veste di viola. Non stai unendo nessun puntino. Col libro, cioè, okay. Scusami. No, era per dire, se c'eri... No. Sì, no, io non sto facendo le domande a caso. Okay. Mif sa cose, di conseguenza sta cercando di unire le cose. Ok. È esperto di arti magiche? Come me, nel suo ambito invece che nel mio. Che ambito è? Stregoneria. Stregoneria, può fare una falce? Suppongo. Io sono a posto. Il suo nome? Non voglio che tu lo cerchi. No, penso già di sapere dov'è. Do una pacca sulla spalla d'oro e dico, mi sa che è troppo tardi per quello ora. E allora non voglio aiutarla a trovarlo. So già dove trovarlo, volevo semplicemente sapere un nome. Biff in questo momento è diventata piattissima, super seria, cioè è uno sguardo diverso della stessa medaglia che vedete. Qualunque cosa succeda da qui in poi non è colpa mia. E non voglio avere niente a che fare con tutto questo. E insomma, se t'ammazzi adesso è un po' colpa tua. Ma non credo sia colpa d'oro, nel senso, non mi pare che tu abbia chiesto niente di tutto ciò, no? Esatto. E la sua inazione nel fermarla la porta al trovare la persona che non voleva che trovasse, quindi se si ammazza è comunque colpa sua. A quel punto Mifa avrà fatto la sua scelta. È stato un piacere questi giorni con te ora. Mi scoccio a liberarmi. Prendo dalle braccia, la tiro su. Ho avuto modo di raggiungere nuove conclusioni oggi. E per questo ti ringrazio ora. Mi fa piacere che la mia vita non sia stata completamente inutile. La faccio cadere. In bocca al lupo. Sì. Cade su un ginocchio con l'altra gamba piegata. Si rimette in sesto le braccia come può, usando la magia. Si mette a posto i capelli e dice: per rispetto del sacerdote e di tutto quello che avete fatto per voi, per me oggi e negli altri giorni, prenderò la mia vita altrove. E si incammina verso l'uscita della chiesa. Prima che se ne va via, io mi avvicino a lei e le sussurro all'orecchio: nessuno dovrebbe avere un potere tanto grande. Nessuno dovrebbe poter avere così tanto potere. Neanche noi. Sono d'accordo. E non siamo fare in modo a pensarla così. Fosse l'ultima cosa che faccio. Fare in modo che questa diventi una terra di uomini e non di dei. Annuisce. E l'ultima cosa che sussurra prima di andare è: è l'unico modo per evitare la fine. Apre la porta, esce, chiude il portone. La porta, portone. Cala il silenzio nella chiesa. Il sacerdote ha rispettato le vostre scelte, quella di ora e quella vostra di non obbligarla, ma è chiaramente infelice, per cui se ne va nelle sue stanze, sale le scale, va al piano di sopra. Nel dietro lo segue. Io porgo la mano al dietro un attimo. Gli faccio cenno così. Di avvicinare, si dice? Il libro blu. Ah, tieni, non darlo a Datone. E gli do il libro blu. Lo prendo. Hai scritto una cosa su Telegram. Ho visto. C'è il team. Lo prendo e lo apro. Sono l'unico che ancora non l'ha guardato. Eccoci. Adore, guarda se l'ha aperto lì davanti a tutti. Lo apri in modo da vederlo solo tu o in modo... Sì, no, faccio attivamente in modo di poterlo leggere solo io. Ok. Lo apri in una pagina a caso, immagino. Sì. Ok. Io la dico a tutti, però ovviamente la vede solo Nibel. Voi non la vedete. Come per gli altri, ti si flasha negli occhi un'immagine come se fosse realizzata sulle due pagine, uscisse fuori dal libro. E in questa immagine ci sei tu, senza il braccio maledetto, diciamo quello infestato, e davanti a te c'è una persona femminile, diciamo, fatta di cristallo, e sembra che il suo corpo sia pieno di schegge, completamente danneggiato, e non riesci a vedere i dettagli, come se qualcosa ti impedisse di vedere chiaramente questa cosa. E però deve avere tipo delle ali, cioè ha qualcosa dietro di sé che le permette di volare. Quante ali? Due. Sono strane, cioè se sono ali sono due, però sono tipo degli oggetti dietro che si muovono e che le permettono di volare. Per qualche motivo vedi sfocato, quindi non riesci a capire. Avendo perso un braccio, il motivo per cui vedi sfocato forse non è così difficile da dedurre come lo facevo sempre. Quindi non ho il braccio normale, ho proprio mi manca il braccio. Sì, completamente. Ok. richiudi il libro, immagino. Sì, chiudo il libro. Adone è ancora lì. Adone Lieto è ancora lì. Sì. Penso sia passato un istante in realtà. Sì. C'è stato un paio di secondi. Te lo ripasso. Posso dare fuoco al libro con Fireball? Sì. Senza uccidere nessuno nella stanza. Sì, sì, lo lasci in un punto e gliela tiri. Beh, più che altro c'è dalla mano, tipo. Ovviamente lo prende proprio. Ah sì, anche. Vado a vedere. Che se fa danno anche a te, ti fai danno. Mi va bene anche bruciacchiarmi il palmo della mano. Può danneggiare anche chi la lancia se si trova nell'area. Domanda, posso fare qualcosa quando vedo che sto cercando di bruciare il libro? Dimmi tu cosa. Sarebbe istantanea, cioè. Lo so. Però non credo, cioè, allora, non so bene come funziona, però eventualmente voglio cassare Yu-Yu sul libro per tipo difenderlo. Non so se ha senso. Non so se puoi, perché il libro non è vivo. Non è vivo? Ah. Sì, funziona. Un bersaglio, dice un bersaglio. Non dice se è vivo o morto, però se bersaglio intendi vivo, allora ok, va bene. Ho solo un counter argument a questa idea, c'è una cosa a cui Adone penserebbe. Yu-Yu gli fa crescere una protezione di legno. Sì, che prende fuoco, lo so. Sì. Però è per poi levarglielo dalle mani, cioè per toglierlo. Ah, ok, cioè prima che lo casti. Puoi. Sì. Se posso fare questa cosa. La facciamo succedere. Prima che tu riesca a castare Fireball, dal libro cresce una sfera di rami che lo copre interamente. Lo lascio andare a terra. E gli tiro di nuovo una Fireball sopra. Mi rolli 4 di 4, tutto per 2. Adone ci mette la mano sicuramente, quindi devo tirare per i danni su Adone. Sì. Devo vedere. Ah no, rolla Ica per i danni. Sì, 4 di 4. No, non è più 2, per 2. 2, 4, 6, 4 di 20 danni. 20 danni. Mio cane. 6 KO. Ma hai portato il libro. Vabbè. Quindi aspetta. Libro intero? Adone è KO. Full. Sì. Cioè, ok. E il cade... libro invece il libro è protettissimo. Il libro è Allora, lo strato più esterno si è bruciacchiato per l'esplosione della palla di fuoco. Ok. Però era uno strato di rami, quindi il libro interno è perfettamente conservato. E ora c'è Adone carbonizzato sopra quello che resta di questo strato di rami, sopra il libro. Adone è KO. Certo che ma non è che sono morto. Due scemi. No, sei KO, sei a 0 di vita, cioè sei a meno 4. Se prendi un altro danno sei morto. Gioco a memoria, no. Lo aggiungiamo in due scemi, esatto. Tipo Mif fa a Nibel, tipo, per favore, ma fa qualcosa. Mif? Certo che c'era Mif. Ah, ok, scusa. Ha guardato tutto Mif, molto divertita. Prendo il cespuglio di rami, lo squarcio aperto, prendo il libro, lo strappo a metà. Nel dubbio sarebbe bene fare qualcosa anche alle metà, probabilmente. Buttarle nell'acqua per pacciugarle non è abbastanza, visto che sta scendendo il finimondo. Che basta essere thorough per quanto riguarda tutte le musiche peggiori possibili, immaginabili. Mi sembra che per adesso abbia fatto solo dei grandi danni questo libro. Adone è svenuto praticamente, vero? Me lo porto su un secondo intanto che voi decidete cosa fare. Ha fatto c'è anche delle cose positive al libro, però. C'è una stufetta. A dopo. Buonasera. Ciao. Allora, in un modo o nell'altro ho ottenuto quello che volevo, ovvero svenire. Sì. C'erano modi migliori che andare a un punto vita dalla morte. C'erano assolutamente modi migliori. Sì, perché ti ha fatto 20 danni, tu a meno 7 di vita muori, sei arrivato a meno 6. Sì, sì, ho fatto i conti. Ok, ok, perfetto. Sei in una situazione strana, nel senso che è tutto nero. Non riesci a capire se sei sveglio o se stai dormendo, perché appunto sei appena stato carbonizzato. L'unica cosa che riesci a sentire è il fatto che la pelle sulla tua schiena, con cui hai coperto il libro, fa un male porco, ok? Tipo third degree burn, cioè proprio arrivato fino in fondo all'osso. E certo. Esatto. E in questa situazione senti solo una voce, familiare, non familiare, non vedi un cazzo, è tutto nero. E la voce parla come se stesse ridendo, è presente quando ridi? C'hai un tono di voce diverso. Sì, sì, sì, sì. E dice: come se i libri potessero bruciare. Come... cosa posso fare per leggere ancora quel libro? Ti prego, dimmelo. È solo questione di aspettare un pochetto. Non voglio aspettare, non posso aspettare. Solo il tempo che la persona giusta trovi frammenti. Posso assorbire l'anima di Ora? O l'anima di qualsiasi altra persona, non mi interessa. Non c'è niente da fare, devi solo aspettare. Ma io non aspettare, diamine! Rispondimi! Se vuoi leggere il libro, devi aspettare. Se vuoi fare dell'altro... sono sicuro che troverai tutto ciò che ti serve dove hanno trovato quel libro. Non puoi dirmi e basta come assorbire un'anima. No, perché io non esisto. No, tu sei l'uomo che ride. E scendiamo di sotto. Ciao. Ciao. Allora, avete deciso cosa fare del libro? Sì, l'abbiamo nascosto. No, perfetto. Il libro? No, l'avevamo incenerito. Il libro? Datemi un secondo. Ah, il libro che abbiamo nascosto. Io pensavo avessimo nascosto Adore. Infatti anche io pensavo avessimo nascosto Adore. Papà, scusate! Pensavo il piano fosse quello. Infatti anche io avevo capito questa cosa. Ma quindi avete lasciato Adone carbonizzato lì per terra? No, l'abbiamo nascosto. Parte che tu non sai. Non siete passati dalla macchina per la cura. Oh. Cioè il cadavere di Adone con meno 4 punti vita, tipo in una cassettiera. La mattina il vescovo si alza, si sveglia, va a prendere la sua toga, apre questo cazzo di cassetto, sta madia, e dentro c'è quel cadavere di Adone. Ah, non di nuovo, e lo chiudo. Non di nuovo. Bello. Cagata a parte, avrei bisogno che mi diceste cosa state facendo, se non cosa avete fatto del libro di Adone. Andando ad incenerire il libro. Siamo andati di sopra a buttare... i pezzettini rimasti del libro che Nibel ha distrutto nella stufa. Ok. E Adone lo avete lasciato di sotto? Sì. Sì, al momento sì. Se non lo curate in nessun modo, rimarrà fuori combattimento per un bel po' di tempo. Beh, dopo quando scendiamo lo portiamo alla macchina. Cioè, sì, dai, insomma. Ci tengo a dire. Ma sembra che abbia fatto. No, ditemi abbastanza. Se devo giocare questa sessione o no, almeno... faccio altro che proprio. Si è vabbè, possiamo fare il Weekend at Bernie's. Ci puoi tenere il cadavere di Adone con le cordine. Vabbè. Wow. L'ho sparata, va bene. Sì, lo portiamo alla macchina, direi. Ok, esatto. Due cose. Il libro è foderato in pelle. La pelle brucia prima o poi, ma ci vuole un po' di tempo. La carta brucia. L'importante è che la carta bruci, secondo me, cioè okay. La pelle era il fodero, vabbè, cioè, lasciamo dentro con abbastanza, vabbè, se Nibel ci vuole proprio mettere l'alcol a sto punto. È a sto punto che lo metta l'alcol. Sulla pelle, esatto. Esatto. Dipende che stufe, cioè sono le stufe quelle di Ghisa, quali sono? Sì, che non me la ricordo, sta stufa, io mi sto lasciando libertà, ma non ho memoria di questa cosa che state descrivendo. Era quella per il riscaldamento. Cioè, una che sì. No, era quella per il riscaldamento, tipo. Ma appunto va a manappetti, infatti. Non ha legno. Ma fa caldo, no? Sì, sì, sì. Sì, però è un'altra cosa. Mannaggia, ragazzi! La campagna si basa su questo. Vabbè, allora io come cazzo me lo accendo la pipa ogni volta? Cioè, ce li avrò dei. Non lo so. Dei cerini. Dei fiammiferi. Credo i fiammiferi ecco, abbiano allora. Inventato nel 700. Che troia! Prendo bife e lieto. Vado nel. Prendo di peso bife e lieto. Vado dietro la chiesa. Nella zona con l'acqua che sta scendendo. Lo butto a terra il. Vabbè, ci sarà una zona coperta. Tipo sotto. La tettoia, butto a terra, ci butto sopra l'alcol della cosa, accendo un cerino e ce lo butto sopra. Nessuno dei passanti ti dice niente, cioè ti guardano, vedono quanto sei alto e dicono: io oggi mi faccio i cazzi miei e proseguono. Sì, no, io riguardo negli occhi ogni singola persona che mi guarda, la riguardo in faccia. Salve. Bene. Qualcun altro che ha sopravvissuto un altro giorno. Hai visto? Ritornate dentro la chiesa, se ho capito bene. Sì, per guarire le ferite di Adone. Adone si sveglia. Trasciniamo. Bentornato al mondo dei vivi, Adone. Sì, okay. Passano 4-5 quanto minuti. Cioè, quanto sta male da 1 a 10? In realtà i tessuti sono stati rigenerati. La sensazione è di numbness. Ma ti ricordi il dolore che hai sentito prima e sei un attimino destabilizzato. Ehi? Ho mana, ho le mie risorse? No. E hai mana tranne quello che hai usato per castare le skill, ti dico subito quant'è. Hai castato Yu da 2 e basta? Sì. Sì, allora sei quasi full. Ah, io non rientro dentro finché non sono sicuro che il libro è generito. Sì, allora, ok, quindi sono Mif e Lieto, esatto. Okay, Mif che ti fa, ma sei scemo? Ma sei proprio scemo, scusami? Madonna, ti guarda. E Lieto incara la dose, tipo, cioè, sei proprio una testa di cazzo. Tossisce, vi guarda un attimo e poi si alza, vi ignora completamente e passa oltre di voi. Riesco a camminare, Vianic? Sì, sì, sei barcollante perché appunto hai tipo tutta la schiena numb. Posso fare la divinità delle minor inconveniences su questa? Tipo gli faccio uno scambetto. Povero Adone. Povero Adone va per il portone, vuole, cioè va per uscire dalla chiesa. Anche prima. Oh, tipo Mif ha un momento di chiarezza, no? E guarda dietro e fa: se va a cercare ora, non lo lascerei andare. E che famo però? Cioè, lo leghiamo? Sì, l'importante è che non dorma. L'importante è che non dorma e... E che non abbia manapenni. Tu lo leghi, io lo derubo. Ma è stato Adone è andato, spero, credo. Nibel, potresti prendere Adone? È fuori Nibel. È fuori Nibel. Sì, vedi, è uscito dal fuoco. Andiamo dietro Adone. Sì, lo andiamo a prendere, cioè. Adone, ti stanno inseguendo, cosa vuoi fare? Oddio, sono veramente inseguito. Io se vedo che mi seguono, inizio a correre, basta. Adone inizia a correre, cosa volete fare? Adone è un bambino vittoriano. Lieto lo raggiunge. Cioè, quindi no, accelerate il passo. Cioè... Okay. Posso usare. Fammi vedere un po'. Aspetta, dammi un secondo per pensarci. Posso usare il mio fottuto famiglio e far inciampare Lieto? Puoi provarci. Certo. Ci provo. Descrivi l'azione, cioè descrivi cosa sta succedendo. Allora, vedi che Adone si gira verso di voi. E dice e urla proprio: lasciatemi in pace! E gestendo, tipo gesticolando verso di voi come se vi lanciasse dell'aria, che si esatto materializza. E vedi questo coniglio, però delle dimensioni di un gatto, che si fionda verso di te, e però va per le gambe, cioè vuole farti. Cioè, vedi, capisci che non ti sta attaccando, ti sta solo facendo inciampare. Devi rollare acrobazia per continuare a correre, oppure rallentare, oppure dimmi te cosa vuoi fare, Lieto. Acrobazia, acrobazia. Vai. È un D10 più... 3, 7. 7. Il coniglio, lo so che ha detto che è grosso come un gatto, però intendeva dire un gattone, ok? Cioè, perché infatti sto dicendo, ma è grande come un coniglio, quindi il coniglio... Cioè... No, no, devo dire un bel micione. E... si chiamano quelli norvegesi. Sì, esatto. È mutato. Lui Maine Coon. Sì. È mutato. Esatto, un Maine Coon. Scusa, Osman. No, ho detto, ci arrivano tanto così i conigli, cioè... È vero, 40 kg, l'ariete. Esatto. Piccolo cane, non so cosa dirvi, un piccolo cane. È un pastore tedesco con l'orecchia. Puoi dire un grosso coniglio, cioè nel senso... Un coniglio. No, no, ma perché dovrebbe essere la versione più grande adesso. Sì, esatto. Cioè, allora, contesto, se prima era di una dimensione inizio poco. Campagna, adesso è di un'altra. È medio. Prima era rat-sized, ora è cat-sized, in quel senso lì. Prima era una lepre, adesso è un coniglio. Un coniglio, bello, coniglio, bello, cicciotto. Proprio ti viene voglia di abbracciarlo, tant'è che tu cadi e finisci ad abbracciarlo. Cioè, gli finisci... Lo uccido. Ma porca troia! Come? No, è una è nel senso cadendo gli addosso, cioè... No. Ok, ok, ok. Sta lì, no. A posto. Posto, ok. Un bel coniglione. Muove il nasino. E tanto la donna corre! E intanto c'è Biff, però, insomma. C'è anche lei. Stava correndo anche lei prima che tiri la cuoia. Devo bloccare anche lei, immagino. No, cioè, ma Biff ti dice, Adore, che cazzo... Gendo torna qui, c'è cioè Maria Rizziari fuori. Ma che vada a fottersi quella troia. Lasciate no, non hai capito più potente risposte. Di te. No, non hai idea, è più potente di te, Adone, fermati. Adone continua dritto, non gliene frega niente. È stanco. Miff si ferma e fa. Sai cosa? Io sto rischiando per niente. Lui cosa fa? Big Bnui, cioè, se, cioè rimane lì un attimo da lieto, poi quando vede che sta bene se va e torna da Adone. Lieto cosa fa? Guarda Miff, fa tipo mezze spallucce con tipo, è l'unico che conosce Maria in realtà, cioè tu ci hai parlato. Cercava anche te, lo sai. Sì, ma non sa che faccia ciò, ci ho parlato in quell'istante, quindi cioè, oddio, sciolte di ammazzare Adone. Non ho problemi. Il coniglio mi sta passando vicino? Sì. Ok, lo prendo per le orecchie. No! No! Okay. Questo ce lo teniamo, ci porterà da lui quando... Se non deciderà di tornare, ecco. Quanto dura il famiglio evocato? C'è un po' di regole. Pranza. Finché non muore dura. Finché non muore o finché non lo richiama. E infatti. Per ora non sai che è fermo. Ma infatti per ora non lo sto richiamando, quindi non ha. Non sono un stronzo. Avete esatto. Il mio coniglio. Esatto. Miff se lo mette. Tipo se lo prende in braccio, insomma, cerca di non fargli troppo male, però non lo lascia andare verso Adone. Pesa come un grosso gattone. Ha anche le ali di noti come quello piccolino. Allora, tu non l'hai mai visto evidentemente, no. Famiglio di Adone, credo. No. È questo coniglione soffice, dal pelo color panna e le ali verdi. Vedi che c'è anche tipo delle corna, forse? Un accenno di corna sulla testa, ma non tipo da diavolo, tipo da cervo, da cerchio. Sì, sì, ho capito. E basta, guarda con quei grandi occhi. Stasera coniglio ti va lieto? Lieto lo guarda e si lecca tipo le labbra e guarda il coniglio negli occhi. Il coniglio non ha nessun tipo di reazione. Guarda io... dove è il suo padrone, ma ormai è andato. Non è per rompervi il cazzo, però una volta un artista ha disegnato il coniglio di Adone. Infatti. E l'ha mandato in chat. Ah, è bravissimo. Quello. Ok, non gli ho fatto le corna allora, mancano le corna. Bene. No, però questa era la versione piccolina, sì. Prima, adesso è la versione media, che è più grande, così. Non c'è anche. Ma è tipo... Jackalope. Sì. Sì, è basato su quello. Sì, un po' l'interazione, esatto. Carino, Nibel, rientriamo, immagino. Sì, sì, sì. Nibel ha finito di incenerire il libro. Ok. A dove ne è scappato? Spargo un po' le ceneri con col piede per vedere se ci sono pezzi interi. Tutto bello. Che la pelle, roba del genere. E poi rientro dentro. E già che ci sono il cerino che avevo acceso, mi sono acceso prima la pipa. Giusto. Probabilmente vedi Miff e Adone. Eh sì, Miff è dietro che entrano. E Miff che ti fa: Adone è scappato. Abbiamo il coniglio. E tipo lo sistema tra le sue braccia. Che metti che alla metà di lei sia un gattone grande. Bene, un altro problema. Già. Che è una soluzione. Face. Direi di non ammazzarlo, può essere utile. In più mi è utile per i miei esperimenti, sai, sui sogni. Però sì, questo coniglio al massimo ci porterà da lui se deciderà di non congiungersi insieme a noi di nuovo. È grande vaccinato, potrà fare quello che vuole. Se vuole, esatto, tornare indietro siamo qua. Già, già, già. Ah, speriamo non faccia sempre cazzate. Che esistessero i vaccini ai tempi. Non credo, ma va bene. Purtroppo no, per i motivi sempre che ci sono i medici, non c'è bisogno di vaccini. Sì. Cioè, è grande, è studiato, allora. Esatto, è grande laureato, grande, grande laureato. È grande laureato, mi piace. Bello. Ok, preferite che faccia la solo run di Adone, cioè il canto del cigno di Adone, o che facciamo prima voi? Canto del cigno di Adone, che domanda. Ovviamente, infatti. Vabbè, dai, uffa. Io volevo parlare con il vero, il sacerdote. Facciamo il sacerdote e poi il canto del cigno. Va bene, Sirio? Dammi feedback, Sirio. No, scusami, mi si era bloccata la cam. Okay. Cosa è successo? Faccio prima la scena col sacerdote e poi... Va benissimo, ma per me possiamo fare la mia roba da soli nella prossima sessione. Mi spiace interrompere così tutto. Il sacerdote, come ti dicevo, è andato al piano di sopra. Quindi... Sì, sì. Andate tutti al piano di sopra o ci va solo Nibel o... Io sto punto sta... Boh. Ma sì, dai. Segui Nibel. Ma io vado alla sua porta. Vai, vai. No, no, no, no, vai. Vai pure. Dalla sua porta e busso molto lentamente. Ma quando bussi la porta si apre perché era proprio aperta. Cioè era socchiusa, okay, male. Vedi che il vescovo è in ginocchio con le mani congiunte davanti a un altarino di Yelos. Piccino, cioè tipo una versione in miniatura di quello che c'è al piano di sotto. E sta chiaramente pregando. Vescovo, la interrompo. Pregavo per l'anima di Ora. Ma dimmi pure. Riguardo al discorso di prima. Il suo cognome è Schiliseto, giusto? È corretto. Se lui è ancora in ginocchio, io entro in stanza, mi avvicino a lui e da in piedi lo guardo dall'alto verso il basso. Conosce un certo Delfo? Mio cugino si chiama così. Mi metto in ginocchio, guardo in faccia. Sa che fine ha fatto? È la pecora nera della famiglia. Ha fatto impazzire mio zio sperperando tutti i suoi soldi e noi avevamo un'attività di conciatori di pelle e cose del genere, piccoli allevamenti di animali, e lui ha sperperato ogni possedimento e venduto ogni cosa, tanto che mio zio si tolse la vita per questo motivo, non potendo pagare i debiti che aveva contratto suo figlio. E so che qualche anno fa è entrato in brutti giri con la corona nera e altre cose del genere, e alla fine delle sue malefatte ha cambiato città, ha cambiato aria. Non lo sento da anni. Sa dove? Non ne abbiamo mai... non mi sta prendendo il microfono, scusate. No. Non ne abbiamo mai parlato, però qualcuno mi aveva detto che era andato verso est. Verso est. Forse Agnasmea, forse qualcuna delle isole. La ringrazio per le informazioni. Sembra che anche lei, come me, sia una vittima di quel tipo. Per fortuna non direttamente. Mio padre mi mise in guardia riguardo a mio cugino e quindi non gli ho mai dato un manapenny. Farò in modo che paghi per quello che ha fatto. È giusto. Potrebbero non esserci dei soldi di mezzo. O meglio, un ritorno di soldi. Se capisce cosa intendo. Posso darti una mano, forse? Adelfo non ha mai avuto una famiglia sua. Suo padre, come ti ho detto, si è tolto la vita. Sua madre è morta di malattia. I suoi fratelli sono emigrati al nord, nell'impero. Però aveva una mercenaria che frequentava. Dai capelli rossi. Credo che il nome fosse Promezia. No, basta. I can. Chi era quella coi capelli rossi? Non c'avevo... Fermo, fermo, cos'è che ha detto? Una commerciante? Una mercenaria. Una mercenaria. Inteso come eufemismo per prostituta. Baldracca. Zoccola. Troia. Andiamo avanti. Puttana. Scusa. Guarda dai facili costumi. Qui ad Apeiro. Bocca di rosa. Sì, c'è un quartiere in mano alla Corona Nera dove ci sono dei bordelli. Fortunatamente abbiamo i giusti allacci. Vero Lieto? Sì, sì, non sono un... cioè, sono un problema qua. Però in qualche modo si fa. Quando si dice che la campagna è andata a puttane. Vabbè. La ringrazio, Vescovo. Possa Ielos vegliare su di te e sulla tua crociata. Possa non vedermi mai. Esco fuori dalla stanza. Avete sentito tutto voi due da fuori, stando in silenzio. Awkward, I guess. Beh, che facciamo? Un'altra domanda questa. C'è sempre un'isola da non dover visitare, in ogni caso. È vero, avremo l'isola da non visitare. Verissimo. E sono ancora lì, non sono andato via, sono... Ah, ok. Sono ancora lì in corridoio, sì, sì. Sono solo uscito fuori dalla stanza. Ok. In parte pensavo per un attimo fosse rimasto di Lieto e Mif che vanno nell'isola, cioè, solo loro. Viali, la porta quattro per campagne farlo... la settimana! Porco Dio! Fantastico! In realtà, cioè, l'isola l'abbiamo vista a questo punto. Poi nessuno di noi ha collegato questa cosa. L'hai appena fatto? Sì. Sì, no, appunto. No, cioè... L'abbiamo vista nella visione. Nella visione l'abbiamo vista. Cronos ci ha detto di non andarci. L'abbiamo vista anche di persona. Sì, quando siamo andati al tempio e l'abbiamo vista in lontananza, che c'era il fascio di luce casualmente piazzato sul centro dell'isola. Sì, Dikai, che è decisamente il prossimo punto in cui cercare delle informazioni. Avete un pomeriggio intero da spendere per fare quello che volete. Io direi che mi muovo su l'uomo partita Sky per vedere quanto minuti riusciamo a resistere prima che muoia definitivamente. Dai, che intanto, viene giocato un record. Sì, sarebbe bellissimo, sarebbe proprio un'esperienza fantastica. Intanto, se fra di voi volete scrivervi cosa fare, potete farlo. Entriamo nella testa di Adone. Dio mio, ho paura. Adone, ho bisogno di un secondo. Non sta partendo. Bot non vuole collaborare. No, non mi piace il nome di quella canzone, Bianchi. Come mai? Ma così, a naso. Ah, la canzone. Sta diluviando. Il rumore è quasi assordante. Ogni tanto interrotto da un fulmine in lontananza. Stai percorrendo verso sud, immagino? Sì. La strada principale di Kainoe, che in questi giorni, forse settimane, forse mesi, avete percorso e ripercorso alla nausea. Quasi ti sembra di riconoscere ogni singolo edificio, ogni singolo mattone, come se fosse molto familiare. Benché questa è la prima volta che fai un viaggio in questa città. Eppure il rumore della pioggia sulle mattonelle ti sembra familiare, ti sembra che ti stia raccontando una storia che conosci già. Cosa vuoi fare? Adone, in verità, a un certo punto credo si fermi, si appoggi un attimo al muro e rimango un attimo lì a pensare, si mette le mani fra i capelli, dice: cosa sto facendo? E appunto si passa così la mano sul viso e nella sua mente pensa appunto: Maria è ancora qua in giro, potrei incontrarla da un momento all'altro, ma non ha senso tirarsi indietro adesso, bisogna andare avanti. E a questo punto, un po' più risoluto, Adone decide di andare dritto. Ora, non è che può, non ha magie di nessun tipo che possono aiutarlo, però a questo punto posso usare tipo il famiglio per mandarlo avanti in avanscoperta. Devi cancellare quello vecchio e crearne uno nuovo. Sì. Lo faccio. Okay. Scusate, vi giuro, non è per motivi di meta, ma nel momento in cui succede questa cosa, che ora siamo allineati col tempo, quindi dopo tutto quello che avete detto e fatto, il coniglio esplode all'improvviso, fa proprio puff, non esplode con un'esplosione cattiva, fa puff come le gemme di Steven Universe. Che cazzo. Di nuovo, fra di voi potete interagire e decidere cosa fare. Dopo averlo cancellato, lo puoi ricreare davanti a te. Se è questo che vuoi. Sì, lo ricreo davanti a me. Mi inginocchio un attimo, gli accarezzo la testa, anche se è un famiglio e ho un po' il materiale. Gli faccio: fai un buon lavoro, d'accordo? E lo mando avanti. A questo punto, quanto disto dall'accademia? Stavi seguendo la strada principale. Quindi per andare all'accademia, seguendo questa strada, devi andare al centro della città e poi girare a sinistra, cioè girare verso ovest. Sei a poca distanza dalle mura della città. Nella mappa se devo ancora attraversare il ponte? Il ponte è alla fine di tutto questo processo. Tu sei, vedi la mappa? Sì. Allora, qua c'è il tempio. Tu sei andato qua. Perché hai fatto perché la linea dritta. Perché non ti vedo segnare niente? È strano, ora ti faccio un bel disegno, un bel token. Allora, qua lo vedi il token? Sì, lo vedo. Ok, questo è dove c'era, dove c'è il tempio. Sei arrivato fin qua camminando dritto per la strada principale. Avanti a te ci sono le mura. E la strada, cioè la strada naturale per andare all'accademia è fare così. Ok. Perché qua devi andare nello sterrato, nelle campagne, insomma fuori dalle strade. Sì, io cerco di fare la strada più veloce possibile. Ok, quindi quale delle due è la più veloce secondo te? Scusami, o andare dritte poi a sinistra, oppure tagliare oppure per le campagne, che essendo della pioggia sono piene di fango, che è la strada che hai fatto all'andata e dove hai incontrato la cartomante. No, dai, vado per la campagna. Perfetto. Se proprio mi casto overpower per avere più forze e andare più veloce. Non so se ha senso. Quanto dura overpower? Cioè, in verità è forza comunque che mi dà, non agilità. Sì, sì. Dura un paio di minuti, quindi in realtà non ha molto senso. Allora niente, tiro comunque per le campagne. Ok. E mando avanti il mio coniglio, che se vede qualcuno o qualcosa di pericoloso lo percepisco, il mio famiglio. Sì. Più o meno, non proprio. Però vedi le reazioni del coniglio. Ok. Stai camminando nel fango. Dopo essersi goduto una mattinata intera di diluvio, è praticamente diventato un acquitrino questa zona. Ogni tuo passo sprofonda nella fanghiglia. Uno splosh fastidioso. Il tuo coniglio è per più di metà dentro al fango e sta saltellando di pozzanghera in pozzanghera. Arrivi non senza fatica in prossimità della stazione, dove hai già avuto l'incontro con la donna. E proprio nel punto dove l'hai vista l'ultima volta c'è una persona sdraiata nel fango, quindi praticamente quasi interamente sommersa. Tiro dritto. Vedo un'ottima. No, no, non bisogna essere curiosi. No, si va dritti. Prosegui sotto la pioggia. Un fulmine ti cade molto vicino facendoti sussultare. E raggiungi il ponte. Il ponte ha 2 centimetri d'acqua sopra, che è il fiume che continua a esondare, eccetera. Regge, cioè si vede che è resistente, però è fradicio. E camminare è abbastanza pericoloso, nel senso che puoi scivolare. Ha delle ringhiere su cui tenersi. Ok, tengo le ringhiere e vado avanti. Il coniglio viene travolto dall'acqua e non si capisce se questo lo stia pulendo o sporcando ancora di più. Salto dopo salto superi anche il ponte e arrivi nella grande piazza della scuola di magia. Essendoci il diluvio universale, è vuota. L'unica cosa che c'è sono le 6 statue delle 6 divinità nelle loro pose plastiche verso il centro della fontana. Guardo le statue con un certo, con un misto fra rispetto, disgusto, ma soprattutto con l'idea che Adone arriverà ad essere quello che sono loro, in un modo o nell'altro. Qual è la tua prossima cosa? Allora, ho una domanda stupidissima, ma io con quale coraggio entro in accademia in sta condizione? Sono sporco, fradicio. Esiste una macchina in accademia per pulirsi, qualcosa? Ci sono a pagamento, cose del genere. Nei bagni ci sono cose del genere. Credo di avere ancora una moneta, tipo. Costa due malapenny. Costa un malapenny usare questo genere di macchine. Ok. Allora, vado per usare quella macchina. Aspetta. Nel caso... Aspetta. Sei fuori. Devi dirmi in quale dei 6 dipartimenti Ah, è vero. I sei dipartimenti delle sei discipline, quindi magia sì. naturale, ontica, eccetera. Necromanzia, alchimia, stregoneria, mi manca l'ultima, teurgia. Da dov'è che si è buttata ora? Ma ontica. Vado in quello lì. Cioè, giusto, non so ragazzi? Se... Mi date conferma? Mi ricordo sì. bene. No, sì, no, sì, no, sì. no, no, no, no, sì, no. Cioè, sì, sì, scusami, no, sì, al biblioteca di ontica. Sì, sì, sì. sì. My bad, my bad. Nella parte proibita. Il portone, essendo mezzogiorno, è pieno giorno, nonostante il diluvio universale lo faccia sembrare sera, tardi, è aperto e quindi puoi entrare senza problemi. All'interno c'è un certo via vai di persone che fuori non c'è, gruppetti di studenti, a giudicare dalle spille, l'età molto giovane e il modo di fare. Qualcuno ti guarda, ma nessuno presta particolare attenzione a te. Già dà più nell'occhio il tuo coniglio. In molti sono incuriositi dal coniglio, però tu sei praticamente ignorato. Cioè, il fatto che tu sia fradicio, sporco, non fa questo effetto sulla gente. Mm-hmm. Vuoi andare verso i bagni? Sì, vado verso i bagni. Ok. All'interno dei bagni del dipartimento di Ontica c'è un ragazzo ventenne, molto più giovane di te. Vi ricordo che Adone ha 31 anni. 31. Non mi ricordavo il numero esatto. Quindi c'ha 11 anni lisci meno di te. Ed è vestito da legionario. Fa quasi specie il fatto che tu sia vestito da civile e sia sporco lurido, e lui si è vestito da soldato e abbia una come si dice, un'armatura pulitissima, precisissima, perfetta. C'è proprio questa discrepanza. Ha i capelli biondi, gli occhi castani, la pelle mediamente, cioè più scura della tua, ma non olivastra, e sta usando un'apparecchiatura con l'acqua per sciacquarsi le mani. Ok, io, cioè, se mi guarda gli dico buongiorno, ma se non mi guarda no, stai impegnato a sciacquarsi le mani, quando ha finito e si allora... mette a bere. Io semplicemente utilizzo un manapenny. Domanda praticamente, visto che ho due manapenny, uno almeno è di Falchena. Sono entrambi di Falchena. Ah, perfetto, allora sì, uno lo uso per ripulirmi, almeno a decenza. La macchina fa tutto in automatico, tutti i tuoi vestiti vengono completamente ripuliti e ricuciti in presenza delle strappature o cose del genere, tutto il fango viene annichilito. Non entrerò nei dettagli di questa cosa per una serie di motivi, ma alla fine di questo processo è come se i tuoi vestiti fossero appena usciti dalla lavanderia, se non appena fatti. E certo. Lo stesso succede al resto del tuo corpo, cioè i tuoi capelli che erano sporchi, la tua faccia che era quantomeno coperta di pioggia, viene pulita da tutto questo e sei completamente rinfrescato. Adone sospira, appunto, un po' più rilassato e calmo soprattutto. A questo punto esce dal bagno, cioè buonanotte. Non saluta il legionario. Che cazzo si saluta in bagno? Incrociate lo sguardo mentre stai okay. per uscire. Lui ti guarda, ti squadra, nota che non hai nessuna spilla né niente, e ti dice: da dove vieni? Città. Sono venuto a notare, a prendere dei libri. No, dico, da dove vieni? Da che città vieni? Non mi ricordo il nome di nessun'altra città. Dice da Falchena. Sono qua da un po'. Dov'è Falchena? È a nord. Giusto? Sì. È a nord. Ah. Motivo della visita? Studio. Ho sentito che ci sono degli invasori dall'impero. Sono venuti a fare casino. Non sarei mica uno di loro. Ma ti pare? Cioè, vedi che si fa così, dice... Ho l'aria di uno che sarebbe capace di nuocere? No. E se ne va prima lui di te. Cioè, ti taglia la strada. Vabbè. Sospira e va verso la libreria, la biblioteca. Arrivi in fondo al corridoio. Non so se lo sai dov'è, nel caso giri a caso finché non la trovi. Chiedo nel caso al tizio di prima o agli studenti? No, agli studenti, c'è cioè un professore. Okay. Mi dico, scusi, dov'è la biblioteca? Ti indicano alla fine del corridoio principale, quindi dal lato opposto di dove sei entrato. E davanti alla biblioteca c'è una porta chiusa. Dietro la porta ci sono delle scale, quindi si sale per andare alla biblioteca. E in faccia a questa porta c'è un banco, dietro al quale c'è una persona, una ragazza. Allora mi avvicino e faccio un pomeriggio, perché è dopo pranzo. Buon pomeriggio. Stavo domandando, io dovrei fare delle ricerche sui contratti ed eventualmente anche altri argomenti. Dov'è la sezione dedicata a queste cose? Per i libri di magia del patto dovresti accedere alla sezione proibita. Se ti interessa sulle robe legali, credo ci sia qualcosa nella sezione di stregoneria. La trovi al terzo piano. E eventualmente per accedere alla sezione proibita? Bisogna avere un... ti indica la sua spilletta. Un pass di una università riconosciuta. E poi devi solo firmare dei fogli. Domanda, io ho qualcosa dell'università di Falchena? È una specie di... non dico badge, ma... se te lo sei portato dietro dall'inizio della campagna, sì. Immagino di sì, cioè non Vai, vedo. Scrivimi per... il tuo identificativo della università di. Della scuola di magia di Falchena. E chiaramente dovrà avere delle ali, perché sennò non so di cosa delle stiamo parlando. Ali, allora. Secondo me è tondo. E magari ha tipo questa raggiera di ali e di piume. Al centro un albero. Da cui crescono tipo sei cerchi e in ogni cerchio tipo il simbolo della varia di ondica, necromantia, sì, eccetera, eccetera. Perché alla fin fine è un'accademia di magia naturale. Dammi 3 secondi e basta. Tipo l'albero di Elden Ring, non so se hai capito. Sì. Non l'avevo mai visto dal vivo il simbolo della scuola di Falchena. Sì, non c'è problema. Ti devo far firmare dei fogli, se non è un problema. No, nessun problema, grazie. È un contratto standard, dice semplicemente che non devi portare via dei libri, non devi infrangere nessuna regola, non li devi danneggiare, eccetera. Se contravvieni al contratto, vieni cacciato dalla scuola. D'accordo. Ti lascio i fogli e devi firmare. Li firmo. Come firmi? Una domanda. Vuoi che vado di là un attimo, intanto che cioè passo agli altri, sì, un secondo. Dammi un secondo. Va. Per pensarci. Ragazzi, mi devo leggere la vostra chat. Perché ho deciso di andare al bordello. Ok. Il coniglio, quando esplode il coniglio, cosa fate? Gli altri due sono mutati. Oh no. Grazie. Io a parte che non so neanche perché avevate un coniglio con voi. No, l'aveva detto Mitchell, se dovevo mandarlo a cercare, almeno avevo il coniglio. Okay. È vero. A quanto pare non potremo più cercarlo. Questo significa due cose: che ha ricastato il famiglio o che è morto. Mi fai un tiro di arcano? Ti faccio un tiro di arcano. Ah cazzo, mi sei chiuso Roll20. Perché Roll20? Cosa c'è? Cosa ha fatto? No, ho detto roll 20. Ah, ho capito, Eddie, no. Bring, cioè, sindrome. Però hai visto che io ho capito subito che lui aveva capito. grandi menti. 6 più? Okay. Plus 2, by the canal. No, 4, 10. Se Adonia dovesse morire, il famiglio rimarrebbe attivo. Ok. Ti riviene se in mente di dopo. Ah, no, ok, niente, cazzata. Decisamente ancora vivo. Ho incastrato il coniglio. Era sicuramente vivo quando ho fatto sparire il coniglio. Da quel momento in poi, Dio solo sa. Sarà combattendo con Maria Lezia. Pugni. Fino all'istante in cui abbiamo visto la nuvoletta del coniglio che faceva era puff. Innegabilmente vivo. Innegabilmente vivo. L'istante successivo potrebbe essere morto. Esatto. E non ci è dato saperlo. E... Nibel, vuoi andare a cercare questa buonissima donna? Avete nient'altro da fare? Ma oggi no. E essere in un qualsiasi posto che non sia l'ultimo posto in cui ci ha visto Adone, visto che c'è Maria, deve anche essere un'ottima opzione. Esatto. Probabilmente magari più tardi vorrei fare un salto da un amico. Però sì, andiamo in questi bordelli. Magari ci si può anche divertire e fa tipo un occhiolino. Vabbè. Io scuoto la testa. She's not very faithful. E... devo leggere il messaggio che hai scritto, credo. Lo sei importante. Vai. Per la build. I vostri figli ci sta. A posto. Oh, è importante saperlo. Sì, sì, sì. Che ci sono io quanto vuoi. Ok, finisco la loro scena. Il quartiere che vi avevano indicato è... dammi un attimo, ce l'ho scritto qua. Pauperia. È... wow. Il quartiere a sud-est. Il luogo dei poveri. In realtà vuol dire i piedi di Apeira. Fai quello che vuoi questa informazione. E grandissimo citazione di Magic, il raggiungimento, il raccoglimento. Comunque sì, quartiere di Pauperia. C'è una sola strada razionale per arrivarci, che è tagliare per il centro della città e poi attraversare il ponte. No, tagliare per il centro della città, andare a sud, andare a Pirenia e poi attraversare il ponte. Se state guardando la mappa, sì. L'unica strada razionale è questa, perché l'alternativa è fare questa, ma poi dovete o circumnavigare o passare di qui, che come vi ricordate era un postaccio. Quello era il tempio di... sì, questo è il tempio di Ruapeira. Di Ruapeira? Sì. Ok. Nel senso, potreste anche fare il giro del globo. Fate come volete, io vi ho detto la strada più razionale è quella di tagliare tutta la città e poi attraversare il ponte. No, no, no, non faremo il giro del globo. Okay. Infatti, tagliamo. Passiamo dentro, sì. Visto e considerato tutto, mi sa che vi faccio fare un'altra scena e poi la chiudo lì. E ora ripasso a Adone. Uh-huh. Hai firmato le carte con... il mio nome, Adone Uhtred. Perfetto. L'impiegata non è così intelligente da collegare nessun cazzo di puntino, nel caso te lo stessi chiedendo. Per cui semplicemente prende il foglio e lo mette nel cassetto dove ha la lista di tutti questi fogli e ti dice: puoi accedere, non c'è problema. Per la sezione proibita c'è il massimo di 2 persone alla volta e dopo l'incidente di oggi credo ci siano dei lavori di ristrutturazione o comunque potrebbe esserci un accesso parziale. Non potevi dirmelo prima? Cioè, Adone non è una critica, proprio confuso, cioè tipo dirmelo prima. Nel peggiore dei casi dovrei aspettare un'oretta, non di più. D'accordo. Grazie lo stesso. E vado. La porta si apre. Senti che c'è tipo un lock che prima era chiuso e si è aperto. Appena ci hai messo la mano sopra. E inizia a salire le scale. A che piano vuoi andare? Il cos'è che mi ha detto? Il terzo? Al terzo c'è la roba di stregoneria, ha detto. Al quarto c'è la roba della magia proibita. No, andiamo subito alla magia proibita, che cazzo me ne frega. Ci sono, al quarto piano, due tecnici. Cioè si vede che non è personale della scuola e hanno delle divise da lavoro. Riesci a percepire una certa energia del piano fisico proveniente da loro. Questo vorrebbe dire che sono alchimisti, non ti faccio rollare, te lo dico e basta. Okay. E fra di loro parlano la lingua del posto, ma da quello che riesci a capire stanno parlando di materiali impiegati, cose del genere, cioè robe tecniche. Ti fanno un cenno, okay, e se gli chiedi di passare ti fanno passare. Ok, allora faccio grazie, molto gentile, vado. Arrivi davanti al sigillo, quello che hanno visto Lieto e Ora. Il sigillo è un cerchio magico blu, semitrasparente, a mezz'aria. Immaginati quello di Raya Lucaria. E sopra c'è un numero che è 0 su 1. Ah, ok, quindi non c'è nessuno adesso dentro. Esatto. Allora entro. Riesci ad attraversarlo come se non fosse, okay, materiale. E percepisci che il numero sopra è cambiato in 1 su 1. Come se fosse proprio cambiato in qualche modo a livello spirituale il piano. C'è effettivamente una sensazione strana, come un odore particolare. Ma riesci a capire che non è un odore vero, è più una cosa che riesci a percepire tu. Come se alcuni libri ti stessero chiamando. Ma dimmi cosa vuoi cercare nello specifico. Allora, io voglio cercare informazioni sui diavoli e su quello che fanno, cioè cosa fanno con l'anima sostanzialmente. Però già prima avevo trovato poche cose sui diavoli sull'altra, sì, biblioteca, quindi c'è una sezione di demonologia che sembra fare al caso tuo. Ci sono decine, se non centinaia, di libri, quindi devi andare un po' a vibe. E come ti dicevo, qualcuno che mi chiama? C'è qualche libro, esatto, che sembra attirarti. Ce n'è uno in particolare, rilegato in una strana pelle. Dico strana perché sembra che sui bordi sia rilegata male. Ah, ok. Come se non ci fosse stata abbastanza pelle per rilegare i bordi. Sulla copertina non c'è nessuna scritta e la pelle anche lì è un po' deformata, un po' rattrappita, e forse per pareidolia ti sembra di vederci una faccia con una smorfia strana, però probabilmente è la tua immaginazione. Lo apro, sorrido indietro al libro e lo apro. Si apre con una pagina bianca e poi con l'indice. L'indice presenta una lista di 72 diavoli da poter evocare. Ogni pagina del libro, il libro ha solo 76 pagine, perché ne ha due all'inizio e due alla fine che non c'entrano un cazzo. Ogni altra pagina ha da un lato il sigillo del diavolo e dall'altra una descrizione dettagliata di che cosa fa. C'è un'etichetta sul libro, l'unica cosa in più, che chiaramente è stata fatta in un secondo momento dalla scuola di magia. Ok. I nomi ti sono alcuni familiari, alcuni no. Infatti. Sara, mi fa mai nominato il diavolo che conosce? Aldadone? Yadamach. L'ha mai nominato? Sì, sì. Yadamach è uno dei diavoli presenti. Un altro che dovresti conoscere è Braxaras. Ad Adore non dice niente, ma c'è anche mio figlio Quibble. Oh, mia moglie! Ad Adore non dice niente, ma c'è anche Demofab. Ad Adone credo non dica niente. C'è anche Sara, l'altro diavolo, quello del tempo. Gengester. Gengester, grazie. E poi la serie. Allora, non è quello che serve ad Adone, però si domanda perché questo libro lo abbia chiamato. Scusami, devo fare un retcon. Sai benissimo chi è Quibble. È il diavolo dei contratti. Te l'ha detto Kiel. Vabbè, è vero, ma in verità sì, me l'ha detto Kiel. Allora, io apro un'argomentazione breve, perché giuro ha senso. Io mi domando sempre, ma quindi adesso Adone diventa fratello di Quibble? Chiusa parentesi. In ogni caso, devi giocare. Infatti, adesso gioco. E a questo punto, però, Adone finalmente dice, quello... Ok, riesce a percepire se uno di questi nomi in particolari lo chiama? O non... vuoi solo il libro di per sé? I nomi in sé non ti dicono niente. Dovresti girare le pagine e vedere se vedi qualcosa. Ok, allora lo faccio. Sono in ordine alfabetico. Per cui il primo di quelli che ti ho menzionato che viene fuori... Cioè ce ne sono altri prima, perché ce ne sono alcuni qua. Il primo che ti ho menzionato che viene fuori... C'è? Aspetto, Ma niente. Ah sì, prendi pure. No, te va più. Eccomi. Dicevo, il primo di quelli che ti ho menzionato che ti dice qualcosa è Braxaras. Prima di lui ce n'erano altri tipo Hanman e altri che non sto a dire. E altri che... Però sì, il primo che è proprio... è Braxaras e ti chiama perché il simbolo che vedi al centro della pagina è il sigillo maledetto che hai avuto nella tua cazzo di testa per un periodo molto lungo. Ma guardarlo quello adesso non ti fa né caldo né freddo. E se ti ricordi, c'erano più varianti di quel sigillo. Certo. Questa è proprio la variante che avevi visto in un certo posto e che ti era rimasta in testa e ora non ti sta facendo nessun effetto. E lo tengo a mente, voglio comunque andare avanti. Ok. Vedere se ho una reazione simile o comunque voglio sentire se qualcun altro mi sta chiamando in questo momento. La maggior parte degli altri nomi che leggi ti sono insignificanti. Arrivi dopo un po' a Quibble, che ti ricordi, il sigillo ti ricordi, certo, di averlo visto, ma non ti dice niente, cioè magari è quello che stai cercando per stipulare un contratto. Andando avanti ce ne sono altri che forse hai sentito, Gengester, Temo, Fab, eccetera. E l'ultimo, credo sia l'ultimo, potrei dire cazzate, comunque uno degli ultimi, se non è proprio l'ultimo, è Yadamak. A differenza degli altri, il suo sigillo emana un'energia. Un'energia che fino a quel momento, cioè non sai fino a quando, però le ultime nel tutta la tua vita precedente non avevi mai sentito. Invece ora è proprio come se riuscissi a feel it fisicamente. Come se avessi sbloccato, te la dico così, un nuovo senso. Un recettore di quella cosa. Ok. Una domanda. Riuscirei a riprodurre il sigillo di Braxaras in un secondo momento? Da a mente no. Devi avere il sigillo davanti. Okay. Madonna, sta telecamera. Allora, Adone, no, prima vorrebbe vedere com'è che si fa ad evocare Yadamak. Non ho capito cosa hai detto. Ah, ok, sta caricando. Ok, sono. Vai. E com'è che si fa a evocare Yadamak? Come quasi tutte le entries in questo libro, dicono in maniera estremamente semplice dei concetti complessissimi. Sirio, ci sei? Non ci sono. Hello. Perché la telecamera ti è proprio esplosa male. Stavo. Ok. È ripartita, ripartita, ripartita. Ho proprio fatto. Vai. Oddio, delle piccole inconvenienze. Sì. La maggior parte dei diavoli si evocano tracciando il loro sigillo e poi attivandolo in qualche modo. Nel caso di Yadamak basta posizionare la mano sopra ed esprimere un desiderio. Yadamak, okay. Se vuoi leggere il dettaglio, è il diavolo dei desideri, conosciuto con numerosi altri nomi. Appare come una creatura con numerose teste di animale, ma può trasfigurarsi in qualsiasi cosa sia l'ideale di bellezza del suo interlocutore. Considerato dai suoi fratelli... La leggo. Uno dei diavoli più deboli in quanto i suoi poteri si limitano ad amplificare i desideri dei mortali. Tuttavia, più forte è il desiderio di chi firma i suoi contratti, più forte è il potere che riceve e che dona. Adone vorrebbe segnarsi sul proprio taccuino sia il sigillo di Yadamak sia quello di... Il sigillo è in rilievo, cioè tutte le pagine hanno i sigilli in rilievo. Quindi se tu ce lo poggi sopra puoi... Ah, faccio così, perfetto. E viene una copia perfetta solo in bianco e nero. Va benissimo. Anzi, se calchi bene viene pure in rilievo, quindi... benissimo, va bene. Ok. E... riesce a ricreare questo simbolo. Sara, se vuoi puoi mandarglielo, se ce l'hai a disposizione, se no uguale. Lo devo cercare. Sì, sì, sì, fai con calma. Vai, cos'altro vuoi fare? Io voglio capire appunto come consumare le anime, quindi qual è l'idea che hanno i comuni mortali riguardo ciò, se c'è qualcosa di... Abbandoni che leggenda libro. A questo punto. Sì, per il momento sì, lo metto al suo posto. Di libri sulle anime nella sezione... Scusami, aspetta un secondo, anzi no. Quali ci sono altri libri che mi chiamano? Qualcosina ci abbiamo. Vado prima da quelli che percepisco che mi vogliono. C'è un libro. Un libro, un trattato di demonologia firmato A Puntato. Quindi il nome è solo la prima lettera. Sì, sì, l'ho capito. Tranquillo. E quando lo apri c'è una dedica scritta in corsivo, cioè proprio in una calligrafia scritta a mano velocemente, che nella lingua del tuo... dell'impero, quindi non nella lingua di Apeira, dice: a una mia cara amica, affinché il nostro legame duri per sempre, a prescindere da quale sia il nome che le daranno. Il libro è un trattato di demonologia. Conta che l'idea generica è che la demonologia sia una pseudoscienza, cioè sia una cagata. E quindi ha un approccio storico alla demonologia, cioè non dice mai si fa questo per questo. È moderno, c'ha meno di un... c'ha una cinquantina d'anni, una sessantina d'anni questo libro. E ogni cosa è tipo, si dice che nell'antichità si poteva fare questo. Il livello di dettaglio delle cose non è una cosa che hai già visto, nel senso, tu hai già studiato libri del genere, ma mai con questo livello di dettaglio. Cioè anche quelli storici avevano sempre un livello di dettaglio molto più blando, invece qua entra proprio in dettagli specifici degli aspetti materiali pratici di come si realizza il rituale. Ti colpisce, sfogliandolo velocemente, cioè è una lettura che andrebbe affrontata con criterio, con metodo, ma sfogliandolo velocemente ti colpisce in particolare un excursus, chiamiamolo, appunto sull'anima, cioè sul come travasare un'anima, ok, da un corpo a un altro. Lo leggo. La versione breve di questa cosa è che Lost, cioè il secondo corpo, deve essere ucciso e l'anima del primo corpo gli si può trasferire entro pochi minuti dopo che è stato ucciso. Il trasferimento viene fatto con un rituale diabolico, ci sono i dettagli di come si fa, i materiali da impiegare, eccetera, cioè ha un costo anche elevato perché richiede materiali strani. E è tutto al passato, cioè si diceva che serviva, eccetera, però entra estremamente nei dettagli di questo processo e dice: in questo modo si può raggiungere una virtuale immortalità in quanto l'anima continua a reincarnarsi in un corpo nuovo. Capisce la dedica, come, non so, a un pensiero. E Adone si segna tutte le cose, ma virtualmente non può fare quel rituale adesso, cioè non ha i materiali e le cose per farlo. Altre cose in questo libro che però sono meno attaccate è come creare la vita dal niente, cioè cose del genere, tutti i rituali diabolici, tutti con un livello di dettaglio maniacale. Mi segno, se proprio sul mio taccuino, queste informazioni necessarie per il rituale, dopodiché chiudo il libro. Perfetto, vuoi fare dell'altro? Altri libri che mi chiamano? Non ti pare. Non in questa sezione, quantomeno. Sì, non in questa sezione. Adone vorrebbe... C'è qualcosa sui patti, diciamo? Sì, c'è una parte di magia del patto. Ci sono dei libri sulla magia del patto, nell'area di demonologia, sempre. Ok, a questo punto vorrei provare a darci un'occhiata. Cioè, ovviamente non è una cosa che posso imparare da un giorno all'altro, infatti, però... La sensazione che hai è come se tu fossi andato in un paese straniero che parla un'altra lingua, scritta con un altro sistema, e parla di legge, ma a livello accademico, cioè è proprio giurisprudenza elevata. Quindi fai moltissima fatica a capire quello che c'è scritto, e una volta che l'hai capito devi ancora graspare i concetti. Quindi è proprio un lavoro che ti richiederebbe anni. Ok, ho capito. Allora, quello lo ignoro. Potrebbe servirlo. Sono frammenti di libri che trovo. C'è quella cosa di cui mi è stata di cui mi ha parlato prima il carissimo. Hai laggato un pochino, quindi non ho sentito bene. Ci sono frammenti di libri blu o pezzi di copertine? No, in questa sezione tutti i libri sono di colori più sobri. Va bene. Provo a guardarmi in giro se vedo qualcuno, ma immagino di essere proprio solo. Sei solo. Uscendo dal corridoietto della sezione demonologia, come ti dicevo, senti altri libri che ti chiamano, in particolare nella sezione di teurgia, o taumaturgia, perché nell'antichità aveva un altro nome la disciplina. Mi direziono. Stai laggando tantissimo. Dimmi te cosa vuoi fare, cioè se Dad parla. Senti? Ti sento meglio, forse è la webcam che ti... Infatti la tolgo. E vado verso il libro che mi chiama, cioè nella sezione di teologia. Ok. Ce ne sono un po' di libri in questa sezione. Alcuni sono effettivamente pitturati di blu. Solo uno di questi ti chiama, nel senso che ti sembra di averlo già visto, ma non nella tua vita adulta. Cioè ti sembra una cosa che hai visto da bambino. Ok. E è un libro normale, cioè rilegato in pelle, questa volta fatto per bene, e ha le scritte di un colore sul giallo dorato. Scusami, Naya non mi aveva parlato di qualcosa di simile? Può essere. Il titolo del libro, di questo libro in particolare, è L'inaugurazione del dio meccanico. Scusami. Ok, sono molto interessato in questo momento. Hai proprio quella sensazione di déjà vu, tu l'hai già visto questo libro, non riesci a inquadrare quando né come. Mm-hmm. Il libro, essendo un libro proibito, è scritto in un'epoca antica. Nonostante sia nella sezione di teurgia, sembra un trattato di tecnomanzia, cioè okay. La tecnomanzia era una disciplina che è stata ampiamente abbandonata, ma un tempo era un sistema molto efficiente per creare delle armi. Aveva anche altre utilità, ma l'uso principale che se ne faceva era quello. Ovviamente. Questo sembra una versione di tecnomanzia e taumaturgia applicata agli organismi. Cioè come trasformare gli esseri viventi in armi. Ok. Ti perdi in questo libro. vado a... leggo. E quello che ti colpisce è una delle ultime pagine in cui si descrive il rituale per inaugurare il dio meccanico, che consiste nel chiamare quanti più fedeli possibili in un luogo dove dimorano numerose anime, e per richiamare il dio meccanico è necessario rinunciare al proprio sangue. A quel punto le catene del fato metteranno tutto insieme e arriverà dall'alto una mano divina. Questa versione breve di quello che c'è scritto. C'è una procedura rigida su come farlo. Ok, ok. Ok, vai. Ti ricorda qualcosa? Scusami, devi dire qualcosa? Sì, certamente, tutto il sogno che ho fatto e... Taglio qua la tua sessione. Ah! Ok, perfetto. Perché l'ultima frase del libro è che l'ultimo passaggio che rimane è alimentare il costrutto. E ci sono le istruzioni per farlo. Taglio, andiamo agli altri e facciamo il fine della sessione. Host, ci sei? Ok. Ci sono. Diluvia. Fulmini un po' ovunque. State camminando verso il centro della città, la strada più breve. Siete in silenzio? Sì. No, cioè, vabbè, stiamo andando in un bel posto, I guess, però diluvia, quindi... Camminata a passo svelto, senza parlare tanto. C'è la lunga scalinata che porta all'acropoli, che dovete attraversare per andare all'altro quartiere. Al termine della lunga scalinata, come forse vi ricorderete, c'è la piazza. Sì, dove abbiamo trovato l'uomo... Crocifisso. Crocifisso. Esatto, bravissimi tutti. Il centro dell'acropoli è libero, con sole 5 persone che stanno al centro della piazza. Tutti gli altri, tutte le poche persone che sfidano la pioggia, il diluvio, sotto le... come si chiamano? I porticati, diciamo, delle case vicine, stanno a grande distanza da queste persone e sono tutti incuriositi e forse un po' intimiditi da quello che sta succedendo. Cos'è che sta succedendo? C'è una giovane donna mascherata e 4 guardie della Legio Orbi, quindi rossi e gialli, con le armature rosse e gialle. Sono tutti più giovani di lei. Ci sono a terra i resti di una croce di legno. Sul terreno ci sono alcuni ratti che sono stati impalati da delle lame di ferro, o dei paletti di ferro, insomma, degli oggetti metallici. Il terreno è smosso, come se qualcuno lo avesse scavato. Una delle guardie, sentite da lontano, che dice... Non mi frega un cazzo di chi sei o da dove vieni. Sei liberato tu, quel coglione mafioso. Sei in arresto. Oh no. La donna, parlando più tra sé e sé che con loro. Le tracce portavano qui, come se ci fosse una forza. Ehi, Troia, non far finta di niente e rispondi. Una forza più affermata. Con la forza, se necessario. I suoi movimenti sono bizzarri, incoerenti, come se fosse ubriaca. A questo punto uno dei soldati, non dico intimidito ma comunque colpito dalle azioni, le punta contro l'arma, una lancia, e lei, vedendo quel pezzetto di ferro in cima a un'asta, scoppia a ridere. E questa sarebbe la vostra forza? Vuoi proprio morire, stronza? La ragazza, ridendo istericamente, manifesta innumerevoli lame che prima le formano un'aureola intorno e poi in una frazione di secondo si conficcano nel corpo del soldato. Il suo sangue schizza ovunque, coprendo sia la giovane donna che i buchi nel terreno. Gli altri quattro impugnano le armi e si preparano allo scontro. La tagliamo qua e la prossima sessione inizia con voi che mi dite cosa volete fare. Oh mamma mia. Oh, signore Dio. Dai.